tami ama nahu parsita manang pasang apomu awama di ujung ningoluku alai di rohaki di anama anak hasian mawas majolo ho ama, mawas majolo ho ama, mida na tua tua mo. Godang doi ama, geleng ni hala, margati soring do ta heidam, naro mulat tuhuta. Satu somang mata heida rohani dan atorasna mono huida iama manete kiruki iama halani nabaga pia sukun majolo dirimi to a two.